Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Federalismo fiscale, c'è il primo sì, il governo approva la bozza Calderoli. Europa al bivio, domani il vertice per decidere come affrontare la crisi, ma un accordo non c'è. In lacrime e in manette i ragazzi che a Roma hanno aggredito un cinese. A extra large il racconto di un testimone. Ho provato a fermarli, ma a Tor Bella Monaca il problema è il disagio sociale. Ci sono obblighi cui il Parlamento non può sottrarsi, incalza il presidente Napolitano. Mancano le nomine di un giudice costituzionale e del presidente della vigilanza RAI. Palin e Biden faccia a faccia senza vincitori, ma i vice evitano le temute gaffe e le cadute di stile. Margherita Grambassi in versione TV è rottura con l'arma. Tra poco sarà ospita extra large. GR extra large, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Anna Migliorati. Trovato dunque l'accordo tra comuni, province e regioni per quanto riguarda il disegno di legge che darà vita al federalismo fiscale. Di questa mattina è passato positivamente dal tavolo del Consiglio dei Ministri. Un tema di cui si dibatte da molto tempo e che oggi arriva al primo capolinea, poi ci sarà la discussione in Parlamento, ma andiamo intanto a Palazzo Chigi da Andrea Viali. Esatto, è così. Questo provvedimento, un disegno di legge delega sul federalismo, è stato approvato da Palazzo Chigi dopo una riunione del Consiglio dei Ministri che è durata circa un paio d'ore. Il testo, lo ricordiamo, passa ora all'esame del Parlamento, che dovrebbe approvarlo entro la fine dell'anno se verranno rispettati gli accordi nella maggioranza. Si tratta di una riforma storica, è stato il primo commento del Ministro dell'Economia Tremonti, sentiamolo. Evidente a tutti che quella del federalismo fiscale è una riforma storica. Credo che sarà fondamentale riflettere da dove veniamo, quali sono le tappe di un percorso che è andato per alti e per bassi. Nel 1994 abbiamo presentato un testo, c'è stato un processo che è passato attraverso la bicamerale, la Bassanini, un testo che è quello delle regioni quali oggi discutiamo, che parte dal 2002, e siamo arrivati a oggi. Comunque è molto importante flashback, vedere da dove siamo venuti, in che termini e modi abbiamo raccolto alla fine un consenso generale. Ecco dunque un percorso lungo, quello del federalismo fiscale, per la cui entrata in vigore definitiva si dovranno comunque aspettare almeno un paio d'anni, un tempo ragionevole, ha detto Tremonti, perché sono infatti necessari diversi decreti attuativi vista la complessità della materia. Molto soddisfatto si è detto anche il ministro della semplificazione Calderoli, che soprattutto per l'accordo che è riuscito a ottenere, il consenso che ha ottenuto attorno a questo provvedimento, che è molto caro al Carroccio. Ma sentiamo Calderoli. Io credo che il testo che è stato oggi approvato consente di fare il passaggio da un federalismo irresponsabile a un federalismo responsabile. Ecco, nel testo sul federalismo fiscale sarà inserito anche l'emendamento per Roma Capitale, emendamento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha dato anche il via libera al decreto che stanzia 1 miliardo e 300 milioni di euro per riequilibrare i conti degli enti locali, risorse che serviranno a compensare ad esempio i mancati introiti per i comuni dopo l'abolizione dell'ICI, risorse che erano state chieste ieri proprio dagli enti locali. Per il momento da Palazzo Chigi è tutto. Grazie, e come ricordava Andrea Viali, è stato proprio questo uno dei nodi più difficili da sciogliere prima dell'approvazione di questo passaggio sul federalismo fiscale. I comuni chiedevano la restituzione dei soldi dell'abolizione dell'ICI, che era stato uno dei primi provvedimenti del governo ad inizio legislatura. Gioia Reffo questa mattina ha sentito il sindaco di Torino Sergio Chiamparino. Stiamo parlando di una legge delega su cui dall'ipotesi di partenza fino alla bozza Calderoli è cambiato dal giorno alla notte, perché siamo passati da un modello che partiva da quello che ognuno si teneva per sé a un modello che invece mette in primo piano la definizione dei livelli essenziali di prestazioni, i costi standard, insomma un modello che è molto più simile alla bozza Prodi Padoa-Schioppa che non alla bozza del modello Lombardo. Adesso lì bisogna che si apra il confronto parlamentare, dal quale, trattandosi di una riforma che io credo sia fondamentale per la modernizzazione del sistema paese, io mi auguro si possa arrivare a una decisione condivisa. Sentivamo anche dell'emendamento su Roma Capitale. Sta per cominciare tra pochi istanti una conferenza stampa proprio del sindaco di Roma Gianni Alemanno. Sentiremo quali saranno le sue parole non appena comincerà. Intanto però resta un dubbio. È vero federalismo? Cosa ne è uscito dopo questa lunga discussione? Sì, è stato naturalmente un lungo dibattito quello sul federalismo fiscale. Allora chiediamo al collega del Sole 24 Ore Giorgio Santilli di delineare quali sono le linee di contorno di questo progetto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Giorgio, buongiorno innanzitutto. Sì, buongiorno a tutti. Cominciamo con l'approvazione di stamattina. Il dato politico è stato già sottolineato, che l'approvazione del governo è avvenuta all'unanimità, dopo che anche le regioni e i comuni nella conferenza unificata di ieri avevano dato un parere positivo. Il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli ha usato questa espressione, una base largamente condivisa, ha sottolineato come questo sia politicamente rilevante. Ovviamente per avere una valutazione nel merito bisognerà attendere il testo definitivo, che pure ha raccolto gli emendamenti di governatori e sindaci, oltre che della discussione avvenuta all'interno dell'esecutivo. Appare già ora comunque che l'unanimità necessaria per far decollare la discussione in Parlamento paghi il prezzo di una certa generosità del testo di partenza. Almeno rispetto alle bozze rigorose, ne faceva cenno prima il sindaco Chiamparino, che il ministro Calderoli aveva messo a punto in agosto, definendo per esempio per ogni livello istituzionale un tributo proprio per finanziare le relative funzioni di competenza. Esempio ne era la tassa sugli immobili per i comuni. Oggi sembra viceversa prevalere il criterio di compartecipazione ai tributi erariali, IRPEF prima di tutti. A questa leva, che va ricordato viene governata dal centro, anche se poi viene distribuita in periferia, si pensa sia per le regioni, per le province, per i comuni e anche per le nuove città metropolitane di nuova istituzione. Insomma, l'impressione è che oggi il disegno di legge sia soltanto un chip per avviare il dibattito. E questa era anche la posizione di Giulio Tremonti oggi in conferenza stampa, che ha raccomandato grande prudenza. Primo perché ci vuole una base di dati condivisa fra tutti, nord e sud, destra e sinistra, centro e periferia. E il governo, ha detto, sta cominciando ad attrezzarsi. Secondo perché i 24 mesi per esercitare la delega, quando la legge sarà stata approvata dal Parlamento, sono un tempo, ha detto sempre Tremonti, non lungo ma saggio. Terzo, infine, perché questo è un punto di partenza di un lavoro complesso e molto delicato. Grazie Giorgio Santilli, e naturalmente siamo all'inizio di una vicenda che speriamo si concluderà presto, ma insomma 2 anni non sono pochi. E veniamo invece alla crisi dei mutui, che è cosa d'oggi. Il pessimismo sul protrarsi della situazione, la paura che persino il pacchetto anticrisi americano, anche qualora fosse approvato dalla Camera dei Deputati americani, possa rivelarsi non sufficiente, hanno trascinato ieri nuovamente a picco i listini a Wall Street. Incerta questa mattina l'Europa. L'Europa che è incerta anche su come agire, su come intervenire. L'urgenza ormai non è più soltanto finanziaria ma anche economica, ma non c'è ancora chiarezza su che cosa faranno i capi di Stato e di Governo, che sono stati convocati, come sapete, domani a Parigi dal presidente di turno dell'Unione Sarkozy. Allora andiamo proprio a Parigi, dove c'è il nostro Attilio Geroni. Qual è il menù che ha preparato Sarkozy per questo vertice, Attilio? Buongiorno, ma è un menù del quale non conosciamo ancora gli ingredienti, se non le indiscrezioni dei giorni scorsi e le smentite a raffica tra i vari partner dell'Unione Europea. Si parla di questo fantomatico piano, la creazione di un fondo comune per il salvataggio delle banche. Sappiamo che la Germania ha reagito negativamente e non vuole sentir parlare di un fondo comune per il salvataggio delle banche, ma preferisce adottare la tattica del caso per caso. Esiste un piano, una specie di compromesso elaborato dagli olandesi e che piace anche ai francesi, cioè l'istituzione di un fondo, ma che è un po' la somma delle parti dei fondi di salvataggio di ciascun paese dovrebbe mettere sul piatto nel caso di crisi sistemiche del sistema delle banche nazionali. Diciamo che c'è grande confusione e c'è grande divisione, sembra un po' di rivedere l'Europa che litiga sulle quote latte, sulle quote pesca, quando abbiamo una situazione assolutamente allarmante sia dal punto di vista finanziario e ormai anche dal punto di vista economico. È ufficiale da oggi il bollettino di previsioni economiche dell'INSEE, dell'Istituto Nazionale di Statistica francese, lo ha detto, la Francia è praticamente in recessione. Grazie a Tilio Geroni, naturalmente a domani per sapere cosa uscirà da questo vertice di Parigi. Sono stati fermati 6 ragazzi, tutti minorenni, che ieri pomeriggio hanno insultato e picchiato un uomo cinese di 36 anni. A riconoscerli Fernando Vendetti, consigliere di circoscrizione del municipio di Torbella Monaca, che ha assistito a tutta la scena, e questo è il suo racconto al microfono di Paola Nania. Non ci ho fatto caso, ho guardato questi ragazzi, però non è che ho dato un'attenzione particolare a questi ragazzi, se non che ho sentito una frase pesante, cinese, e poi la parolaccia. E allora a quel punto l'ho guardati bene per capire che stava succedendo. C'era un signore cinese che camminava verso la fermata, che non avendo capito cosa avevano detto, era rimasto un po' attonito. Il più alto dei ragazzi si è posto a gambe divaricate, cioè a gambe aperte davanti a lui, e gli ha sferrato violentemente un pugno. A quel punto ho visto il cittadino cinese barcollare, gli altri che stavano per sopraffarlo, ho strillato che fate, e sono corso verso il gruppo. Loro hanno visto che c'ero anch'io, li ho guardati, ho detto ho visto a tutti, allora loro sono scappati. Secondo lei questo è un episodio che ha a che fare col razzismo o no? Sicuramente con un disagio sociale, penso a sfondo razziale, ma sicuramente con un disagio sociale. Tra l'altro questo non è il primo episodio a Torbella Monaca. No, non è il primo episodio, ma non è un episodio da accollare a questi ragazzi, nel senso che ci sono stati altri ragazzi che l'hanno fatto, questo sì, lo sappiamo. Un municipio periferico, un municipio difficile? È un municipio difficile perché comunque comprende 18 quartieri più popolosi. Lei pensi che il nostro municipio è grande come estensione, come Firenze e come popolazione, a 330.000 abitanti, compresi gli stranieri che saranno circa 100.000, però ha un commissariato e 2 stazioni dei carabinieri che lavorano con sacrificio H24, però come organici e mezzi saranno a 20 anni fa. Il Parlamento non ha ancora nominato il giudice della Corte Costituzionale e il vertice della Commissione di Vigilanza RAI. Oggi su questo è intervenuto il Presidente della Repubblica Napolitano, Vincenzo Miglietta. Quali sono state le parole di Napolitano? Sì, buongiorno, è un vero e proprio monito quello del Capo dello Stato al Parlamento perché decida sulla nomina di un giudice costituzionale sul Presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Il pressing di Napolitano arriva attraverso un comunicato del Quirinale che riporta di un colloquio telefonico tra il Presidente della Repubblica e Pannella in relazione allo sciopero della fame in atto da parte di quest'ultimo per la mancanza delle nomine in questione. A Marco Pannella spiega il Capo dello Stato: ho fatto presente la preoccupazione e l'impegno con cui da tempo seguo queste vicende, si tratta di obblighi a cui il Parlamento non può ulteriormente sottrarsi, aggiunge Napolitano, in quanto toccano la funzionalità di importanti istituti di garanzia. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. C'è anche un italiano tra i vincitori di quest'anno del Ig Nobel, il riconoscimento che gli scienziati danno agli studi più strani o divertenti. È Massimiliano Zampini, 38 anni, in forza al Centro Interdipartimentale Mente-Cervello di Trento. Il premio è andato ad una ricerca condotta quando si trovava a Oxford. E il tema è la percezione delle patatine. La cerimonia si è tenuta questa notte al Teatro dell'Università di Harvard. Viene da sorridere, e insomma tra il serio e il divertente. In Italia invece sarà Bergamo nei prossimi giorni a trasformarsi proprio nella città della scienza. Bergamo diventa ancora una volta capitale della scienza, aprendo gratuitamente al pubblico le sue dimore storiche, i chiostri, i palazzi, le chiese, i teatri e i musei. Oltre 100 eventi tra conferenze, mostre e laboratori interattivi per 16 giorni alla presenza di numerosi ospiti internazionali per questa 6ª edizione di Bergamo Scienza, in programma fino al 19 ottobre. Andrea Moltrasio, presidente di Bergamo Scienza. Noi tendenzialmente non abbiamo mai temi dominanti, forse abbiamo un leitmotiv che è proprio questo, cioè il virus della scienza che contamina tutte le altre espressioni culturali. A spiegare tanti dei segreti della scienza, alcuni tra i migliori ricercatori del mondo, tra cui diversi premi Nobel. Ad affiancarli e a fare gli onori di casa anche molti nomi della scienza italiana, ma all'insegna del divertimento. La scienza è anche divertimento e non è soltanto qualcosa di noioso da studiare come credono molti studenti a scuola. Obiettivo è come sempre divulgare la scienza e quindi tutti gli strumenti che servono. li usiamo nel modo migliore possibile. Il tema è sempre quello di motivare i giovani a capire la scienza. Il vero problema della scuola di oggi, ma anche di quelli come noi che non vanno più a scuola, è la motivazione nel conoscere, e c'è molta voglia sempre, bisogna solo stimolare e creare le occasioni. E domani la notte della scienza, una serata di musica e intrattenimento per una riflessione semiseria sul mondo scientifico. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Tra poco Extra Large, Margherita Grambassi, versione TV naturalmente. Ieri seconda apparizione ad Anno Zero, tra le polemiche. Margherita, vediamo qualcun altro che sta con te. Sì, questa sera è arrivato un bel pullman da Milano, ma tra queste persone mi ha colpito in particolare una ragazza che si chiama Françoise, che è giovanissima e soprattutto era la ragazza di Abdul ed era la prima nella fila a manifestare nel corteo ad Abdul dedicato. Che cosa avete voluto, Françoise, manifestare con quel corteo? 13:20, GR Extra Large. Federalismo fiscale, c'è il primo sì, il governo approva la bozza Calderoli, approvate anche le compensazioni ai comuni per l'abolizione dell'ICI. La soddisfazione del ministro dell'economia Tremonti, una riforma storica. Europa senza accordo per la crisi, domani il vertice per decidere misure comuni. Berlusconi, siamo preoccupati ma l'Italia è sotto controllo. Il Parlamento non si sottragga ai suoi doveri, il Presidente della Repubblica Napolitano sollecita così l'accordo per le nomine di un giudice costituzionale e del vertice della vigilanza RAI. Margherita Grambassi in versione TV, è rottura con l'arma? Tra poco ospite a Extra Large. Dallo sport al giornalismo, dalle pedane del fioretto olimpionico di Pechino al palco della trasmissione di Michele Santoro, Anno Zero, parliamo naturalmente di Margherita Grambassi, l'ha intervistata Dario Ceccarelli. Buongiorno Margherita, allora il giorno dopo come ti senti? mi sento bene, un po' stanca magari, però ovviamente è molto bello poi rivedere le persone con cui si è lavorato e discutere di come sono andate le cose. Senti, tutti si domandano, ma lo strappo con l'arma è consumato? Ma io in realtà non volevo che questa fosse interpretata come una battaglia, e non lo è assolutamente. Io ho soltanto fatto capire loro quanto ci tengo a continuare la mia carriera sportiva nell'Arma dei Carabinieri, ho cercato di fare tutto il possibile perché ciò accadesse, ma evidentemente loro hanno le loro ragioni e quindi si è arrivati a non accettare l'aspettativa che io ho presentato ieri. Quindi andiamo verso un divorzio. Ma questo non lo so, non ci voglio pensare in questo momento ovviamente, però insomma staremo a vedere come andranno le cose. Io sono sempre, credo che la speranza sia sempre l'ultima a morire. È più difficile dare una stoccata o bucare la TV? Beh, diciamo che per dare una stoccata ci vuole tantissimo allenamento, tantissimo impegno, tant'è che io faccio scherma da 20 anni. Ovviamente credo che comunque entrambe le cose richiedano uno sforzo, un allenamento e si imparino con il tempo. Molte mie colleghe della radio mi hanno fatto notare per tomba tutte queste discussioni sull'incompatibilità non ci sono state. È il solito problema che le donne devono stare al loro posto? Ma questo ovviamente non lo deve chiedere a me, io ero moltissimo, veramente tanto orgogliosa di essere stata oltretutto una delle prime 10 donne carabiniere, sono entrata nel 2004 e con appunto il primo concorso per carabinieri dedicato alle donne del centro sportivo. Io mi auguro che non sia questo il motivo, sinceramente poi le marachelle di tomba le conosciamo tutti e quelle sì che credo fossero incompatibili. Poi ecco, io ripeto, sogno un futuro da giornalista, perché purtroppo l'attività sportiva prima o poi dovrà finire, ma me ne rammarico perché sarei la prima a voler continuare all'infinito, però ovviamente credo che sia anche giusto e opportuno pensare al futuro. I calciatori fanno i giornalisti alla domenica sportiva, lei va ad Anno Zero, qualcuno dice nessuno fa più il suo mestiere, lei che cosa risponde? Io rispondo che se uno è in grado di farne due, perché no, insomma. Io ho fatto fino ad oggi l'atleta, intendo farlo ancora per molto tempo, spero di continuare con buoni risultati. È chiaro che non mi sono potuta preparare durante gli allenamenti sportivi a fare la giornalista, però credo che se una persona poi vale, dura, questo io ovviamente lo devo soltanto che dimostrare, perché non è ancora così. Definirmi ora una giornalista non credo che sia opportuno, magari. Non le sembra che sia uno dei tanti cortocircuiti di questo paese che si parli di lei come quasi un caso politico? Ma io probabilmente mi sono trovata d'improvviso in una situazione un po' più grande di me, ecco, della quale non conosco bene le dinamiche. Sono la prima ad essere stupita di tutta questa importanza che si è data al mio caso, forse un pochino esagerato, ecco. Diciamo che mi piace molto stare sulle pagine dei giornali se appunto ottengo un bel risultato, se devono farmi dei complimenti, per carità, però tutto questo era assolutamente inaspettato. Timissima cosa, la disturbata che un presidente della Repubblica l'abbia definita una velina? Beh, bisogna capire che cosa significa il termine velina. Sul dizionario ancora non credo che esista. Io mi sono semplicemente dispiaciuta quando ha definito il mio abbigliamento indecoroso, perché mi sembrava assolutamente inopportuno come accenno, però insomma ieri so che ha fatto anche un accenno a questa sua frase chiedendo scusa, per cui insomma è tutto a posto. Proprio ultimissima, anno zero, il fatto che sia una trasmissione così politicizzata ha influito in questa vicenda? Questo non lo deve chiedere a me, io mi auguro di no, anche perché comunque diciamo che il mio spazio è, non dico uno spazio a sé, perché comunque si parla del tema affrontato poi nel programma. Diciamo che io do voce ai giovani, sinceramente. È un programma di approfondimento, poi che è politicizzato, questo è tutto da dimostrare. Bene, Margherita, io la ringrazio, è stata molto gentile, buon proseguimento per la sua carriera, qualunque sia, e grazie e alla prossima occasione. Grazie, arrivederci. Grazie anche al nostro Dario Ceccarelli, e noi proseguiamo parlando davvero d'altro con i consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Una serata romana può avere così una conclusione o un inizio da Agata Romeo, un ristorante che non si può definire tipico, ma che ha molti piatti sicuramente tradizionali, ma soprattutto perché Agata, la cuoca che è in cucina, offre tutta una serie di piatti che lei stessa ha così creato. Tra l'altro ha pubblicato un libro molto bello in cui ci sono tutte le sue ricette. Mentre da Romeo fatevi consigliare in sala, soprattutto per quanto riguarda i vini, perché sicuramente è un sommelier di razza. Ebbene, devo dire che il piatto così che viene ricordato di questo ristorante, perché non si può non mangiare, sono i diversi modi di cucinare il baccalà. Quindi sono 5 portate di baccalà che vi vengono portate, e una diversa dall'altra. Oppure ci sono anche dei ravioli con un ripieno d'astice e sesamo. Anche questo è un piatto, come diciamo, questo è un piatto dell'invenzione di Agata. Sicuramente è molto delicato, e vale la pena di provarlo. Bene, 3 secondi il maialino di cinta glassato con le mele renette, oppure un filetto di vitella piemontese con lardo e pepe rosa e una confettura. Una carta dei vini sicuramente molto importante, quindi si può scegliere veramente di tutto, ma ci sono anche vini al bicchiere ed ottimi. E poi per finire un bonbon di cioccolata oppure l'eccellente millefoglie. Lo ripeto, Agata e Romeo a Roma in via Carlo Alberto 45. Buona serata dal vostro gastronauta. 13:33, GR Extra Large con le notizie di oggi. Federalismo fiscale, c'è il primo sì, il governo approva la bozza Calderoli, approvate anche le compensazioni ai comuni per l'abolizione dell'ICI. Tremonti, una riforma storica. Europa senza accordo per la crisi, domani il vertice a Parigi per decidere misure comuni. Berlusconi, siamo preoccupati, ma l'Italia è sotto controllo. In lacrime e in manette i ragazzi che a Roma hanno aggredito un cinese. A Extra Large il racconto di un testimone, ho provato a fermarli, ma a Tor Bella Monaca il problema è il disagio sociale. Contratti, Bombassai ottimista, lo strappo con la CGIL dice si può ancora ricucire. Licenziati, pentiti e poi riassunti 8 ferrovieri genovesi. Se c'è ancora il vincolo fiduciario è legalmente possibile, spiega un esperto. Margherita Grambassi in versione TV, a XL dice sono stata orgogliosa di essere una delle prime 10 donne carabiniere, ma oggi sogno un futuro da giornalista. In apertura un'ultima ora che riguarda l'incidente nel cantiere avvenuto ieri lungo l'autostrada la 1. È omicidio colposo secondo il magistrato che ha preso in carico l'indagine. Ha detto Luciana Singlitico, che si è recata sul luogo, non si sa ancora nulla, ma è evidente che c'è un omicidio colposo. Ricordiamo che nell'incidente ieri sono morti 3 operai. Nuovo incontro a Roma tra Confindustria e sindacati sulla riforma del modello contrattuale, dopo il no della CGIL da verificare l'ipotesi di andare a un accordo separato. E oggi intanto a Capri prende il via anche il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Ci colleghiamo allora con Capri e con Anna Marino, buongiorno. Buongiorno, sì Anna, oggi si alza il sipario tra pochissimo con qualche cambiamento di programma sulla 23esima edizione del Convegno Nazionale di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria, dedicato quest'anno al tema innovare l'energia, imprese, ambiente tra sviluppo competitivo e sostenibilità. Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti anticipa oggi il suo intervento dopo la leader nazionale degli under 40 di Confindustria Federica Guidi, presenti oltre al Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, anche il titolare degli interni Roberto Maroni, Ministro delle attività produttive Claudio Scaiola, oltre a esponenti del mondo industriale. E sul tavolo temi caldi la crisi finanziaria e la riforma contrattuale. Intanto è guerra di cifre tra Confindustria e CGIL sugli effetti in busta paga della riforma dei contratti. Emma Marcegaglia ieri ha contestato i calcoli di Guglielmo Epifani con il modello che è stato presentato dagli imprenditori, i lavoratori ci guadagnerebbero, e oggi il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, in un'intervista al Corriere della Sera, ha affermato che un accordo senza la CGIL non è ancora dato per scontato, anche se in esame, e ha aggiunto che nel frattempo ci auguriamo che lo strappo voluto dalla CGIL possa essere ricucito, ed è tutto da Capri. Grazie ad Anna Marino. E ora andiamo a Roma, dove era prevista la conferenza stampa del sindaco alemanno Francesca Malaguti. Sì, il sindaco alemanno sta parlando, facendo il punto della situazione sul federalismo fiscale per quanto riguarda Roma Capitale dopo il CDM di stamattina, e si è detto orgoglioso che dopo 30 anni che si parla di Roma Capitale oggi si sia fatto un passo decisivo su poteri e finanziamenti. Nel CDM, ha detto, sono stati varati 2 atti importanti. Il primo, inserito nel decreto legge, che stanzia definitivamente 500 milioni di euro all'anno per Roma Capitale a partire dal 2008 il sindaco ha specificato serviranno per ripianare il deficit dopo l'accumulo di 8 miliardi e mezzo di debiti degli ultimi anni. Il secondo atto invece è contenuto nel disegno di legge a cui ha dato il via libera oggi il CDM, che sarà collegato al bilancio, e questo significa che sarà necessariamente approvato entro fine anno. Questo ha detto Alemanno ci rende sicuri che la norma su Roma Capitale sarà inclusa in quella del federalismo fiscale. Ha detto grazie a questo Roma sarà trasformata da un comune a un ente speciale e ci darà più poteri per gestire il comune e l'area metropolitana. Per il momento dal Campidoglio è tutto, a voi la linea. Grazie anche a Francesca Malaguti. Come sentivamo, la conferenza stampa è ancora in corso. E allora veniamo a una vicenda che vi abbiamo anticipato qualche istante fa, quella degli 8 operai delle Ferrovie dello Stato, che ricorderete erano stati licenziati perché uno di loro aveva timbrato il cartellino al posto degli altri, e invece ora potranno tornare al loro posto di lavoro a Genova. È stato infatti il Tribunale Civile a suggerire una riconciliazione tra le parti, che ieri è arrivata. Ma su che basi? Giuseppe Bulgarini Delci, avvocato esperto di diritto del lavoro, ci spiega che in base a quali principi e norme sia stato possibile tornare indietro su quella decisione. Sentiamo. I dipendenti accettano il licenziamento e si impegnano a non proseguire l'azione in sede giudiziaria. In cambio, Ferrovie dello Stato riassume gli 8 ferrotramvieri con decorrenza metà ottobre. In sostanza, i dipendenti perdono la retribuzione non percepita nel periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello della riassunzione a metà ottobre, ma riacquistano il posto di lavoro. L'accordo sottoscritto da Ferrovie dello Stato sembra ad una prima analisi sorprendente, perché la contestazione che sorreggeva il licenziamento degli 8 ferrovieri sembrava grave ed incontestabile nella sua portata di inadempienza disciplinare. Ad un esame più meditato è apparso tuttavia, sempre secondo il resoconto che si è potuto ricavare dalla lettura dei quotidiani, che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Ferrovie dello Stato preveda, in presenza di addebiti riconducibili a quello della timbratura del badge da parte di un operaio anche per conto di altri operai, l'applicazione della sanzione dei 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Quindi, un provvedimento disciplinare meramente conservativo, che prevede la conservazione del rapporto di lavoro e si risolve nella trattenuta di 10 giorni della retribuzione e nella corrispondente sospensione per 10 giorni dell'attività lavorativa. A tale proposito, è utile precisare che il provvedimento del licenziamento per giusta causa può essere applicato solo in presenza di una lesione irreparabile del vincolo fiduciario. Evidentemente, il presidente del Tribunale di Genova, nel sollecitare le parti a trovare una soluzione conciliativa sotto questo profilo, ha ritenuto che la fattispecie dovesse rientrare nell'ambito di una sanzione conservativa. Dai NAS, i carabinieri antisofisticazioni, alla Scuola Normale di Pisa, passando per Umbria Jazz, ecco le eccellenze italiane segnalate dall'Eurispes nel rapporto di cui vi abbiamo raccontato anche ieri, e oggi una di queste eccellenze ve la raccontiamo, il viaggio di Radio 24 al racconto della Fondazione Fabrizio De André. È insolito che una fondazione intitolata a un artista sia un esempio di eccellenza gestionale. Eppure lo è, secondo l'Eurispes, la Fondazione Fabrizio De André, nata per diffondere la conoscenza dell'opera del cantante genovese, ma anche per fini di solidarietà sociale. A parlarci di questo riconoscimento è la presidentessa e vedova del cantautore, Dori Ghezzi. Evidentemente hanno notato una certa correttezza, un certo rigore, una certa trasparenza, insomma, e dei risultati. In pochi anni che esistiamo qualcosa è stato fatto, evidentemente ancora oggi fa la differenza se ci si comporta in un modo o nell'altro. Quanti soci ha la fondazione? Credo 2000, una cosa, sono 1000, perché poi variano di giorno in giorno, non c'è una quota fissa, uno lo può fare anche con un euro, cioè, e poi resta un socio senza continuare a farlo annualmente, non c'è un obbligo. Ci sono diversi iscritti, ci sono dei fondatori che sono tanti, poi dei sostenitori, si lavora anche per cercare di ottenere dei risultati e poi si devolvono i soldi. Ci fa un esempio, un caso che avete sostenuto? Dal Gaslini di Genova, a Libra di Don Ciotti. Qual è il collegamento tra De André e questi casi di bisogno? Basta ascoltarlo, di conseguenza ha sempre parlato di minoranze, di persone che soffrono, che trovano questo percorso di vita non certo facile e semplice, di conseguenza noi cerchiamo di perseverare in questa direzione, e quindi non è tanto la fondazione, non è tanto nata per promuovere ancora Fabrizio, che non ne ha assolutamente bisogno, ma è proprio per un andare avanti e seguire quella traccia che ha già segnato. Siamo americani. Abbiamo un bambino che ha bisogno di cure. Non so come abbiamo oltrepassato le linee tedesche, ma siamo circondati. Non devi avere paura. Senti la magia. Tu devi solo crederci. Un omaggio all'Italia e alle vittime della guerra mondiale, l'ha definito Giorgio Napolitano. Questo è il trailer del film Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee, che esce oggi nelle sale italiane. Ambientato in Italia, un film che narra di alcuni militari americani neri venuti a liberare il nostro paese dal nazifascismo. Un film che racconta anche dell'eccidio di Sant'Anna, d'altronde è nel titolo, il 12 agosto del 44, 560 morti civili. Film che ha scatenato polemiche, perché secondo alcuni sopravvissuti e secondo i partigiani, Spike Lee avrebbe distorto la realtà storica, lasciando credere, per esempio, che la strage fosse derivata dalla presenza di partigiani a Sant'Anna. Elio Toaf, rabbino, oggi 93enne, è sopravvissuto a quella strage, e la sua testimonianza al microfono di Dario Ricci. Ero andato a fare il rabbino prima a Ancona e poi a Venezia. La mia reazione fu quella di andare a parlare con l'avvocato Salvatori, che si sapeva essere a contatto con le forze partigiane, e cercare di farmi prendere nella resistenza. Lui mi disse quelli che erano i pericoli a cui si andava incontro, risposi che non me ne importava niente e quindi feci il partigiano. Quella mattina, quando vidi 3 colonne di SS che salivano verso Sant'Anna di Stazzema, io andavo a prendere il latte lì a mezza strada, capii che era arrivato un momento molto grave. Dettero fuoco a tutto, io ricordo circa 500 morti che c'erano nella piazza. Da quel momento io non ebbi più pace, fin tanto che non feci quello che potevi fare. Insieme a altri qualcosa facemmo. Si salvò per una preghiera, di fatto. Certamente, c'è nel Talmud che la preghiera salva dalla morte, e quando io ero già dentro la fossa cominciai a pregare, il capitano delle SS mi domandò cosa dicessi. Gli risposi che dicevo le preghiere che si dicono per i moribondi, dato che non c'era nessuno che l'avrebbe dette per me, me le dicevo direttamente. Mi fece uscire dalla fossa, vidi fucilare i miei compagni e io fui portato in prigione, da dove poi naturalmente scappai. E ora la nostra finestra sul mondo arabo con la rassegna stampa a cura di Dibbe Fateli. La ripresa in grande stile degli attentati in Iraq è in primo piano sulla stampa araba di oggi. Al Hayat titola: strage di fedeli sciiti nel primo giorno della festa di fine Ramadan. A Sharbelaustat riporta le accuse al premier Nouri al-Maliki di aver militarizzato il paese senza però riuscire ad imporre la sicurezza. Secondo i suoi detrattori iracheni, nel paese si calcola un militare ogni 30 cittadini, mentre nelle scuole ci sarebbe un solo insegnante ogni 50 alunni. Lo stesso giornale definisce sorprendente la proposta dell'Iran di fermare l'arricchimento dell'uranio sul proprio territorio in cambio di combustibile nucleare e si interroga sulla serietà degli ayatollah di Teheran. La comunità islamica in Svezia grida al miracolo. Al Quotidiano Arabo riferisce che in una cittadina della Svezia una famiglia musulmana, tagliando un frutto di mango, ha trovato le parole Allah e Maometto scritte in lingua araba. 13:47 minuti e 30 secondi, GR24 extra large. Federalismo fiscale, c'è il primo sì del governo. Approvata la bozza Calderoli, Tremonti, una riforma storica. Contratti, bombassai ottimista, lo strappo con la CGIL si può ricucire. Tre operai morti nel cantiere dell'autostrada del Sole, per il giudice è omicidio colposo. Pelin Biden, faccia a faccia senza vincitori tra i candidati vice alla Casa Bianca. Partiamo proprio da qua perché si è tenuto questa notte il primo ed unico faccia a faccia tra i numeri due di Barack Obama e John McCain. Sentiamo com'è andata. Il gaffer e il pitbull col rossetto hanno incrociato finalmente i guantoni. 90 minuti di diretta televisiva fra Joe Biden, democratico, esperto di politica estera, famoso per le sue gaffe, e la rivale Sarah Palin, repubblicana dell'Alaska, mamma di 4 figli, da molti considerata inesperta. Un testa a testa vinto dal vice di Obama, secondo le emittenti CNN e CBS, un pareggio secondo altre fonti. Quel che è certo è che entrambi ne sono usciti senza le temute gaffe, ma anche senza aver assestato colpi fatali all'avversario. Hanno incrociato le armi su tutti i temi più scottanti, dalla guerra in Iraq all'energia, dai diritti dei gay alla crisi economica. Anche su questo punto ognuno ha cavalcato il suo stile, quello dell'uomo, anzi della donna, comune per Palin, che legge la paura della crisi negli occhi delle madri che a bordo campo guardano i figli giocare a calcio. Go to a kid's soccer game on Saturday and turn to any parent there on the sideline and ask them, how are you feeling about the economy? And I'll bet you're going to hear some fear in that parent's voice. Biden, figlio di operai, critica l'amministrazione Bush, che ha messo, dice, in una situazione drammatica la classe media. The policies of the last 8 years have been the worst economic policies we've ever had. As a consequence, you've seen what's happened on Wall Street. Il tutto a poche ore dal nuovo voto alla Camera al piano di salvataggio delle banche, addolcito ieri in Senato con sgravi fiscali da 150 miliardi in favore della classe media. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Così il duello in TV, e andiamo invece sui giornali stranieri con Michele Pignatelli. Buongiorno, bisogna dare un'occhiata ai giornali americani online per avere ovviamente i primi titoli sul dibattito Palin-Biden. Citiamo allora il New York Times, che sarà in edicola oggi: faccia a faccia tra Palin e Biden, cordiali ma espliciti, puntuali nelle loro risposte, scrive il New York Times. Mentre il Washington Post punta sul fatto che entrambi i due candidati hanno corteggiato la classe media. Entrambi, scrive il Washington Post, hanno evitato figuracce, ma soprattutto la Palin, che era attesa con particolare preoccupazione a questa prova. Per restare sui temi elettorali americani, vi ricordo uno speciale sull'Economist in edicola oggi: McCain contro Obama, raffigurati in copertina come due pugili, uno speciale di 20 pagine, un confronto tra i due sui temi più importanti, dall'economia alla politica estera all'assistenza sanitaria. Il grande tema che domina oggi ancora i giornali internazionali è naturalmente la crisi finanziaria con le sue diverse sfaccettature. Le mosse della BCE, apertura del Financial Times, la BCE prepara il terreno a un taglio dei tassi, probabile in novembre, il primo in 5 anni. Sostanzialmente il titolo analogo che fa in apertura anche oggi lo spagnolo El País. Poi gli aiuti e le mosse dei vari stati, ancora il Financial Times, di spalla, passo indietro di Sarkozy dalla proposta di un piano UE di salvataggio. Apertura del Wall Street Journal, invece, gli istituti di credito bypassati, potremmo tradurre, si lamentano dell'aiuto di Stato alle banche. Questo perché si sta verificando un fenomeno, la fuga dei clienti verso le banche nazionalizzate. E poi c'è il piano americano di salvataggio approvato dal Senato, oggi di nuovo alla Camera. L'Herald Tribune titola «Il populismo repubblicano divide la destra nelle due Camere». E ancora sulla crisi il Britannico Times, caos, disordine UE sulle banche. Britannico Times che ci dà lo spunto per un altro titolo di cronaca, questo che domina sui giornali oggi, il primo poliziotto britannico cacciato in una sorta di golpe. Sono le dimissioni del capo di Scotland Yard, Ian Blair. Per chiudere i giornali francesi, ancora crisi con un taglio nazionale. E naturalmente Le Figaro, la recessione, quella ipotizzata dalle previsioni INSEE, apre il dibattito su un piano di rilancio. E torniamo in Italia per le nuove critiche del Papa ai metodi contraccettivi. In un intervento questa mattina Papa Ratzinger ha detto che tutti i metodi che impediscono la procreazione dei figli snaturano il senso ultimo del matrimonio. L'intervento ai 40 anni dell'Umane Vitae, con un discorso del Papa che però ha detto su questa questione i nostri fedeli trovano delle difficoltà a comprendere gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Al Forum Architettura di Milano, in programma la Triennale, si è parlata di quella che sembra essere la vera novità architettonica del XXI secolo, e allora sentiamo qual è. Immaginatevi una casa dove la palestra e il salotto sono in comune con altri appartamenti. Nell'edificio in questione esiste un micronido per i bambini e perfino un'area giochi. L'avete capito, insomma, una rivoluzione architettonica. Si chiama co-housing ed è la nuova tendenza nel realizzare abitazioni. Case che siano rispettose dell'ambiente, in piena efficienza energetica e che quindi abbattano i consumi e che trasformino un palazzo in una comunità. Il direttore della rivista d'architettura, Giovanni Leoni. Stanno riemergendo dei temi che sono un po' anche, come dire, delle nuove mode. Pensiamo alla sostenibilità. La sostenibilità ha riportato all'interno dell'architettura un tema che è un tema di architettura da sempre. Il tema del costruire senza danneggiare l'ambiente e rendendo confortevole il luogo dove le persone abiteranno. Il problema del vicinato, delle relazioni fra le persone. Insomma, l'edificio non è più un insieme di appartamenti, ma una rete di persone che vivono la loro vita privata, certamente, ma si rapportano anche tra loro. In Italia sono ancora una rarità, ma si stanno diffondendo un po' ovunque. Edifici co-housing per creare palazzi e metropoli un po' più a misura d'uomo. Andrea Silla, GR24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere, il nostro appuntamento con la sicurezza stradale. Sapete ormai da diverso tempo che questo spazio è dedicato alla sicurezza stradale. Molte cose rientrano sotto questo concetto. Intanto il codice della strada, quindi delle regole a cui tutti si devono attenere per una convivenza civile, anche quando guidiamo, che insomma sia rispettosa degli uni e degli altri e che assicuri l'incolumità di tutti. Ma sappiamo che quando le regole non vengono rispettate, a parte quello che può succedere, ci sono delle sanzioni. Noi le chiamiamo semplicemente multe. Ebbene, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, per certi versi le multe oggi come oggi sono considerate la rapina del secolo, addirittura. Questa è la definizione dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha confrontato gli importi. Poi sentiremo cosa ne pensa Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, che ha confrontato, dicevo, gli importi delle multe stradali del vecchio codice della strada del 1959 con quelli del nuovo codice, che fra l'altro vengono aggiornati, come già Scotti ci spiegava, ogni 2 anni con il tasso di inflazione. Ebbene, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, nell'arco di mezzo secolo gli aumenti sono terrificanti ed è evidente, dice l'Unione, che sono stati studiati solo per arricchire le casse dei comuni. È così, Silvio Scotti, secondo te? Dunque, innanzitutto il dato fa sensazione, però dobbiamo calcolare che si tratta di un aumento su mezzo secolo e quindi sarebbe anche interessante confrontarlo con altri aumenti. Seconda cosa, bisogna puntualizzare che si tratta di sanzioni, non di tasse, e di conseguenza possiamo anche fare una riflessione per quanto riguarda il codice, e cioè che non è obbligatorio violarlo, si può anche rispettare. Però ti faccio un caso, perché loro portano degli esempi, no? Le multe per i divieti di sosta semplice, di fermata, e per il superamento del limite di velocità entro 10 km, che vabbè è un po' più grave di una sosta semplice, sono aumentati, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, del 6.870%. Certo, però stiamo parlando del 1958, no? 59. Esatto, 59, quindi diciamo che allora i veicoli circolanti solo fino a qualche anno prima, che io ho trovato un riferimento a 54, sono 300.000, all'attualità sono quasi 50 milioni i veicoli circolanti in Italia. Ora è chiaro che è aumentato a dismisura anche il rischio, il pericolo per la circolazione. La singola auto che circola su una rete viaria enorme non costituisce di per sé un pericolo. Se queste auto diventano tantissime, il pericolo cresce a dismisura. Inoltre proviamo anche a pensare alle vittime che abbiamo ogni giorno sulle strade. Parliamo anche del divieto di sosta. Quante volte noi vediamo degli incidenti negli incroci semplicemente perché un'auto si è sporta troppo e quindi non ha concesso la precedenza, ma semplicemente per guardare chi arrivava, perché i veicoli in sosta le impedivano la visibilità. Quindi credo che ci siano una serie di considerazioni più globali da fare. Altre cose sarebbero da dire, ma intanto sono ineccepibili chiaramente i ragionamenti di Silvio Scotti, che ringrazio. Roberta Giordano vi invita comunque sempre a guidare con intelligenza. Federalismo fiscale, c'è il primo sì, il governo approva la bozza Calderoli. Europa al bivio, domani il vertice per decidere come affrontare la crisi, ma un accordo ancora non c'è. In lacrime e in manette i ragazzi che a Roma hanno aggredito un cinese, a Extra Large il racconto di un testimone, ho provato a fermarli, ma a Tor Bella Monaca il problema è il disagio sociale. Ci sono obblighi cui il Parlamento non può sottrarsi, incalza il presidente Napolitano, mancano le nomine di un giudice costituzionale e del presidente della vigilanza RAI. I tre operai morti nel cantiere dell'autostrada del Sole per il giudice è omicidio colposo. Margherita Grambassi in versione TV, XL dice: sono stata orgogliosa di essere una delle prime 10 donne carabiniere, ma oggi sogno un futuro da giornalista. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Filippo Regi, in studio Alessio Maurizi e Anna Migliorati. Che vi danno appuntamento con XL alle prossime edizioni. XL si ferma per la pausa del fine settimana. Lunedì Simone Spezia e Alessandra Tedesco, come sempre a partire dalle 13. GR24, il sole 24 ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.